verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Un po' che l'offerta è molto ricca, un po' che negli anni questa scelta è stata caricata di fin troppi significati, la scelta delle superiori sta monopolizzando le discussioni familiari in questo periodo, laddove esista un adolescente di terza media, o per essere più corretti, un adolescente all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, che però per comodità chiameremo ancora terza media per il resto dello speciale. Anche perché ormai ci siamo, dal 7 gennaio al via le iscrizioni, c'è tempo poi fino al 31. Le modalità sono quelle che ormai conosciamo, modalità online per le iscrizioni a tutte le prime classi di ogni grado. Nel corso di questo speciale cercheremo di darvi qualche consiglio utile, anche se in un'ora non potremo certo essere esaustivi. Vi ricordo però che al tema abbiamo dedicato ben 2 mesi di programmazione di Verso il Futuro e Oltre, parlando dei vari indirizzi, chiacchierando con professori, presidi, psicologi, chi più ne ha più ne metta. Quindi tutte le puntate le trovate sul sito di Radio 24, vi consiglio di dare un'ascoltata quando avete un po' di tempo, perché credo che potreste trovare qualche spunto interessante. Naturalmente ascoltare Radio 24 non basta, via in giro per Open Day, via con i colloqui, con i professori, a pietire, a volte consigli orientativi pilotati, insomma tutte quelle cose lì che conoscete molto bene. Se avete in casa un ragazzo o una ragazza pronti a spiccare il volo con i loro brufoli sul viso, ma anche con i loro bei sogni, pronti più o meno a diventare grandi. Ma pronti lo sono davvero? E qua arriva il brutto. Come ormai di consueto, scuola.net sforna in questo periodo un bel sondaggio, proprio con la collaborazione di Radio 24, per fotografare come sono messi i ragazzi arrivati ormai al capolinea delle medie, ed emergono spunti davvero interessanti. Salutiamo Daniele Grassucci di scuola.net. Ciao Daniele. Buongiorno e bentrovati. Allora, sono pronti o no questi ragazzi? Hanno scelto l'indirizzo di studio? Purtroppo l'indecisione regna sovrana, come ogni anno siamo costretti a constatare, perché il 46%, a 2 settimane appunto dall'inizio delle procedure di iscrizione, ha ammesso candidamente di non aver compiuto la scelta definitiva. Quindi direi che non sono ancora pronti e che l'indecisione a me non aiuta. E riguarda 1 su 2 più o meno dei ragazzi intervistati, eppure hanno fatto orientamento anche più dell'anno scorso. Sì, quello che abbiamo potuto rilevare insieme è che 9 ragazzi su 10 hanno ricevuto da parte della scuola un'attività di orientamento. Lo scorso anno quelli che non avevano appunto ricevuto questo tipo di formazione e informazione erano stati circa il doppio, ovvero 2 su 10, e al sud diventavano quasi 3 su 10. Quest'anno appunto la percentuale di quelli che sono rimasti senza orientamento si è ridotta, e soprattutto anche al sud sono aumentati notevolmente quelli che hanno svolto attività di orientamento. Però probabilmente il problema non sta tanto nella quantità ma nella qualità, perché solamente 1 su 3 ha promosso a pieni voti le attività di orientamento, e anche gli open day, a cui ormai non ci si può sottrarre, non sono serviti a chiarificare, proprio perché si tratta di scelte complesse in un mondo complesso e probabilmente la scuola non è in grado di dare tutte le risposte che servono a questi ragazzi. Interessante anche Daniele la domanda su cosa i ragazzi si aspettano dalle superiori, perché ci fa anche un po' capire come si dipingono nei loro sogni il futuro questi 13-14 anni. C'è un grosso timore rispetto alle prospettive future offerte da questo paese, per cui ecco, un dato da tenere in considerazione è che un ragazzo su 2 a 13 anni ha paura di non riuscire a trovare lavoro, mentre 2 su 3 ritengono che andare all'estero per lo studio o per lavoro dopo il diploma sia un'opportunità da prendere in considerazione seriamente, per cui questi dati dovrebbero farci riflettere su come i ragazzi percepiscono in maniera negativa le prospettive offerte da questo paese e quindi lo stato d'animo con il quale si accingono ad effettuare questa scelta. Sicuramente positivo anche quello di fare un'esperienza all'estero, bisogna poi vedere se questi ragazzi hanno intenzione di restarci o di tornare. Allora, interessante anche a mio parere la richiesta di concretezza che arriva da questi ragazzi. Sì, i ragazzi appunto si stanno rendendo conto che la teoria non applicata a attività pratiche, quindi una teoria campatenaria, non può preparare oggi a quelle che sono le sfide della nostra società, per cui chiedono sempre più che la scuola non si limiti insomma a trasferire una cultura astratta, ma che questa cultura, che deve essere conservata, sia applicata attraverso magari delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, attraverso magari il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale come quelle linguistiche, ma anche quelle legate alla programmazione, all'utilizzo di software specifici. Chiedono anche attività di orientamento e di preparazione al mondo del lavoro. E questo è davvero interessante. Andiamo al capitolo alternanza scuola-lavoro. Sappiamo che ormai si chiama percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ma ci piace di più chiamarla alternanza perché ci sembra un po' più immediato. Insomma, questo programma introdotto dal governo Renzi, dimezzato poi dal governo Conte 1, al centro di una riflessione ora con il governo 2, con una parte che vorrebbe aumentare di nuovo le ore, una parte invece quella dei 5 Stelle a cui l'alternanza non piace. Insomma, questa alternanza piace o no ai ragazzi? Innanzitutto ci ha sorpreso scoprire che oltre la metà dei tredicenni comunque sapeva di che cosa si stesse parlando, quindi vuol dire che questa nuova è entrata forma ormai nella realtà delle scuole, diciamo. Assolutamente, e quindi da una parte i ragazzi vorrebbero fare più ore perché, come dire, ora che il sistema è rodato si sta scoprendo che le esperienze di alternanza sono positive, c'è anche un effetto passaparola. Noi abbiamo rilevato lo scorso anno che il 60% dei ragazzi che avevano svolto un'esperienza di alternanza fuori dalla scuola, quindi non alternanza simulata, ma una vera esperienza di lavoro in un'azienda o anche nel terzo settore o nella pubblica amministrazione, erano soddisfatti, avrebbero voluto ripetere. Per cui da una parte un effetto più positivo che non negativo di questo progetto, dall'altra la consapevolezza che la reale risposta, o almeno una delle risposte possibili alla concretezza richiesta dai ragazzi, fa sì che si prenda in considerazione nella scelta della scuola anche i percorsi di alternanza che vengono offerti e che i ragazzi chiedano più ore rispetto alle ore minime. E 7 su 10 addirittura appunto vorrebbero riaumentare le ore di alternanza, quindi questo è davvero un dato interessante. Ma quelli che ad una scelta alla fine sono arrivati e quindi sono pronti a iscriversi a questa benedetta scuola secondaria di secondo grado, cosa hanno scelto secondo il sondaggio? Il sondaggio, in linea con quanto già emerso lo scorso anno, ci indica e conferma una vocazione maggioritaria dei licei, quindi ritengo che anche in questo 2020 si confermerà la maggioranza che l'anno scorso ha visto il 54% optare per un liceo, il che a mio avviso rappresenta un'occasione sprecata, perché nei nostri paesi ci sono dei tecnici e dei professionali di eccellenza che si stanno svuotando proprio perché si ritiene che questo tipo di formazione non sia qualificante e abilitante per il mondo del lavoro o per un futuro di successo. In realtà in molti casi è vero l'esatto contrario: andare in un liceo senza poi costruirci sopra un progetto formativo adeguato magari dà meno opportunità rispetto magari a frequentare un ottimo istituto tecnico o professionale, che però non viene ancora scelto dalla minoranza. Grazie a Daniele Grassucci a scuola.net, che anche quest'anno ci ha regalato questa opportunità preziosa di rilevare come i ragazzi la pensano e come sono messi in questo periodo per la scelta delle superiori. Grazie Daniele. Grazie a voi e in bocca al lupo per la scelta agli studenti e alle famiglie. Ora il primo dei nostri consigli d'autore, quello di Telmo Pievani, filosofo della scienza e autore con il nostro Federico Taddia di Terra in Vista, edito da Mondadori. Il consiglio che sentirei di dare alle ragazze e ai ragazzi che stanno per scegliere la loro scuola superiore è quello di non farsi prendere dall'ansia dell'incertezza o dalla paura dell'incerto su quello che succederà, su quello che faranno da grandi. Io mi ricordo che in terza media non avevo assolutamente idea di quello che avrei scelto e tutto è andato bene. Poi a maggior ragione oggi viviamo in un mondo in cui i mestieri, le professioni sono molto meno definiti di una volta, quindi non preoccupatevi. Scegliete una scuola che abbia una buona reputazione, se possibile, e poi affidatevi alle vostre passioni, ai vostri interessi, a quello che vi piace fare, a cui pensate di poter dedicare tanto tempo di studio. Verso il futuro e oltre. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, ya, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tap sulle frasi del tipo. Bla bla bla bla bla, nemmeno ascolto e sta zitto. Non mi definisco finto, mi faccio un favore. Un viaggio lungo cambia lo spirito. Cosa scegliere dunque dopo le superiori? L'offerta, lo dicevamo, è molto ricca. E allora andiamo a conoscere meglio alcuni indirizzi di studio. Lo facciamo andando a pescare le scuole risultate migliori nell'indagine Eduscopio 2019, quell'indagine che ogni anno sforna la Fondazione Agnelli, andando ad esaminare gli esiti all'università dei ragazzi che escono da licei ed istituti tecnici, e andando anche a vedere gli esiti occupazionali per chi esce invece da tecnici e professionali. Da questa indagine emerge poi una sorta di classifica città per città, quindi se volete andare a vedere quali sono le scuole migliori nella vostra città, nella vostra zona, non dovete fare altro che andare su eduscopio.it. Classifica Eduscopio che ci porta a Cittadella, in provincia di Padova. Siamo all'Istituto Tecnico Meucci, che ha un tasso di occupazione davvero buono, l'87%, fra i più alti d'Italia. Significa che chi esce dal Meucci trova lavoro e in più un lavoro coerente con il piano di studi seguito. Un istituto che ha oltre al tecnico anche un professionale e un liceo artistico. 53 classi, 1200 alunni, 150 docenti. Lui che è a capo di un istituto di eccellenza come questo, il dirigente scolastico Roberto Turetta, ci racconta perché e in quali casi prendere in considerazione l'idea di iscriversi all'istituto tecnico. In tempi non diciamo così incoraggianti da un punto di vista delle prospettive occupazionali, io credo che il primo motivo che mi viene in mente è proprio questo, e cioè la garanzia, di fatto è una garanzia, di avere soddisfazione nel mondo del lavoro, cioè quindi di essere richiesti, di non dover attendere anni prima di avere un impiego. Credo che questo sia il primo. Poi, altrettanto importante è un po' di passione, ovviamente, per le discipline tecniche, quindi un interesse o per la meccanica o per l'elettronica o per le telecomunicazioni, è un ingrediente sicuramente che garantisce poi il successo formativo. Quindi chiederei a questi alunni di indagare in se stessi anche e soprattutto sulle loro passioni, sui loro interessi, insomma. Ecco, questo chi è quello il che ragazzo direi giusto per un istituto tecnico, secondo lei? La scuola è caratterizzata da tanti laboratori, dove i ragazzi possono vedere nei laboratori quello che viene spiegato appunto a lezione. Quindi senz'altro lo studio è importante, quindi anche la passione alla conoscenza sui libri è importante. Però è il vantaggio, ed è questo secondo me il vantaggio di un istituto tecnico, la possibilità di vedere poi tradotto in praticamente ciò che viene studiato in classe. La possibilità di vederlo in laboratorio è quello che secondo me cattura di più i nostri alunni, e quindi appunto l'alunno curioso viene soddisfatto da questa presenza, forte presenza laboratoriale. E invece cosa direbbe ai genitori che forse ancora un po' troppo spesso spingono i figli verso i licei, magari con una punta di prevenzione nei confronti dell'istituto tecnico? Direi, se abbiamo un alunno, un ragazzo, che portato per lo studio anche teorico, quindi diciamo dove le sue capacità speculative diremo già si vedono, perché indugia sui libri, si appassiona anche a concetti anche astratti, ecco, quello forse è l'alunno che indicherei per il liceo. Viceversa, l'alunno invece che questo tipo di predisposizione o di attitudine meno spinta, e viceversa, tende magari ad aspetti più pratici o tecnici, ecco che forse gli suggerirei di fare un istituto tecnico, ecco, Insomma, in una parola, perché è così bello andare al tecnico? Cosa c'è di bello? Come possiamo invogliare questi ragazzini di terza media? Parliamo di 13-14 anni? Ma io li inviterei a visitare i nostri laboratori, ecco, vedendo i nostri laboratori, vedendo in azione i loro compagni che hanno appena un anno più di loro o due anni di più, mentre sono intenti a effettuare una lavorazione meccanica al tornio o alla fresa, piuttosto che a fare un disegno tecnico con l'AutoCAD, piuttosto che a realizzare un circuito stampato nel laboratorio di elettronica piuttosto che realizzare un programma in un laboratorio di informatica, ecco, vedendoli impegnati in queste attività laboratoriali, io credo che gli alunni che escono dalle scuole medie sicuramente si appassionerebbero e vedrebbero nell'istituto tecnico una scuola sicuramente interessante e appetibile, ed è quello che di fatto avviene, perché i nostri ragazzi, i ragazzi delle medie, quando vedono i laboratori, soprattutto se sono gremiti dei nostri alunni che stanno lavorando, rimangono veramente soddisfatti, insomma. Affascinati, sì, ecco, sì. Dal Veneto alla Puglia per parlare degli istituti professionali, anche qua tanto lavoro pratico, tanti laboratori, quindi una buona alternativa all'istituto tecnico. Andiamo a Conversano perché qui c'è l'Istituto Severina De Lilla che nell'ultimo rapporto Eduscopio si è piazzato in cima alla classifica. Nella provincia di Bari è qui che i ragazzi vengono preparati meglio al mondo del lavoro. 750 alunni guidati da Margherita Manghisi, dirigente scolastica anche dell'Istituto Alberghiero Modugno di Polignano a Mare, la quale ci spiega perché un ragazzo dovrebbe scegliere il professionale. Un professionale perché se si studia, e qui si studia perché non è una realtà grandissima, loro hanno una formazione completa e possono scegliere già nella loro vita di fare o il percorso universitario di studio tecnico superiore o già cominciare ad impiegarsi a lavorare subito con un'identità precisa, quindi diciamo che permette una formazione, a una possibilità più ampia rispetto ad un altro tipo di scuola. Chi è il ragazzo, la ragazza giusta per questo indirizzo, cioè per il professionale e non invece un tecnico e non un liceo? Una ragazza, un ragazzo che sia curioso del mondo, che abbia voglia di mettersi subito in discussione. I ragazzi fanno veramente tenerezza, perché vederli già dall'inizio con una macchina fotografica dal primo anno, con una cinepresa, oppure noi stiamo facendo un progetto molto bello adesso sull'abito del futurismo con il Circolo Unione, con il Circolo Unione di Bari. Vederli studiare storia dell'arte, anche italiano, e anche applicare le loro conoscenze alla pratica, al disegno, al bozzetto e poi alla realizzazione dell'abito è veramente entusiasmante. Sono ragazzi curiosi del mondo ed è una cosa bellissima questa. Molte famiglie lo ritengono, quello del professionale, un percorso troppo orientato al mondo del lavoro e magari un po' carente proprio nel fornire una preparazione culturale di base, è così? No, perché il curriculum è identico, il biennio è identico in quasi tutte le scuole. Loro, come per il percorso di matematica per esempio, arrivano a studiare anche l'analisi matematica nel triennio. L'italiano studiano esattamente la letteratura che abbiamo studiato noi quando siamo andati al liceo. Studiano più ore, in un liceo si studia per 27 ore, in un professionale si studia per 32 ore. Se i ragazzi sono motivati, i ragazzi studiano e il percorso è un percorso completo, tant'è, come dicevo prima, che i nostri ragazzi non hanno difficoltà a superare i test universitari. Molti ragazzi, i nostri ragazzi hanno preso 100 e 100 in lode, e quindi questo vuol dire che il percorso è stato un bel percorso universitario. Poi considerate che noi partecipiamo ai festival letterari, ai festival culturali che sono presenti sul territorio, quindi i nostri ragazzi leggono. Abbiamo fatto un incontro con Stefano Iaccarino, che è un giornalista del Corriere che scrive di enogastronomia, e un ragazzo durante l'intervento si è alzato e ha detto: non si dica che noi dell'alberghiero, noi del professionale non leggiamo, perché noi leggiamo. Quindi qui i ragazzi leggono, studiano, la formazione è una formazione completa. Certo, 32 ore la settimana sono impegnative. Ecco, lei dice tantissimo laboratorio, quindi come vengono preparati questi ragazzi? Cosa fanno a scuola? Loro fanno ogni settimana una buona parte del curriculum, circa 10 ore del curriculum di laboratorio, cioè vanno nel laboratorio CAD per eseguire i bozzetti per quanto riguarda l'indirizzo di produzione artigianato, oppure hanno per quanto riguarda le produzioni audiovisive tante macchine fotografiche, videocamere, e un laboratorio di 25 macchine, di 25 Mac, dove fanno produzione e post produzione, filmano oppure utilizzano dal vivo quelli che sono poi gli strumenti del loro lavoro futuro, perché loro alla fine del percorso di studi potranno sia iscriversi all'università sia anche aprire una bottega artigiana, cioè cominciare un'impresa, un'intrapresa economica. Quindi un professionale che accompagna al lavoro, magari ad aprire una bottega, come dice la dirigente scolastica di Conversano, ma anche, perché no, proseguire con gli studi. Fra poco parleremo del liceo scientifico, pro e contro di questo indirizzo di studi. Prima della pausa però un altro consiglio d'autore, quello di Francesco Dell'Oro, orientatore a Milano da quasi 50 anni, pensate. Ha visto in tutti questi anni migliaia di ragazzi e di famiglie. Autore di Indietro tutta, edizione Tra le righe. Come insegnanti dovremmo evitare alcuni schematismi. Non si può intervenire a scuola dicendo quelli bravi vanno al liceo, i meno bravi i tecnici, gli sgarrupati i professionali, la Croce Rossa, la formazione professionale. Chiedo scusa, ma è proprio il messaggio che le ragazze e i ragazzi raccolgono in classe. E questo messaggio crea una competitività, va a ferire delle anime. Io ero in una classe, tutti mi dicevano vado al classico, vado allo scientifico, e c'era un ragazzo che non si esprimeva. Io ho detto, ma tu cosa vuoi fare? E lui sottovoce mi ha detto, io vado all'istituto tecnico. E poi i luoghi comuni, è bravina, va a scienze umane, è mica un cestino della carta scienze umane. Oppure un papà che mi ha detto, mio figlio si è iscritto in informatica e telecomunicazione, peccato, studiasse di più potrebbe fare lo scientifico, vuol fare informatica. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta con Preatoni Nuda Proprietà, l'operatore specializzato nella compravendita di nuda proprietà immobiliare. Puoi partecipare al suo modello di business sottoscrivendo quote di Preatoni Nuda Proprietà Crowdfunding sulla piattaforma MamaCrowd. Visita www.preatoninudaproprietà.it oppure www.mamacrowd.com per scoprire i dettagli. Con Preatoni Nuda Proprietà, la casa ha un nuovo valore. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a gennaio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Verso il futuro e oltre. Minchia tu come fanno chiamarsi ancora frei. Questi stanno rosicando, dagli occhi sgramavano la mia poca sobrietà quando a scuola. Proseguiamo il nostro viaggio fra i vari indirizzi di studio. Fra i più scelti dai ragazzi c'è il liceo scientifico e noi ne abbiamo scelto uno di eccellenza. Siamo infatti a Fossano, in provincia di Cuneo, liceo scientifico Ancina, 96,31% il punteggio assegnato dalla Fondazione Agnelli in Eduscopio. Significa che i ragazzi che escono dall'Ancina hanno ottimi risultati all'università. Duccio Chiapello in questa scuola insegna da anni storia e filosofia. Ecco che cosa ci ha raccontato. Noi facciamo sempre questo discorso, che il liceo scientifico non lo conosciamo, non lo consigliamo ai bravi, perché il compito di renderli bravi è il nostro, non devono arrivare già bravi. Devono venire qui coloro che sono curiosi, perché c'è la curiosità che ti dà l'apertura mentale poi per diventare bravo. Quindi diciamo così, chiunque sente una curiosità, diciamo così, di fondo, e quindi abbia sete di una scuola che per 5 anni lo aiuti ad aprirsi al mondo, chiunque senta la curiosità, diciamo così, abbia l'intraprendenza di cominciare un cammino, diciamo così, che comporta delle sfide, ma senta l'entusiasmo per queste sfide, va benissimo per la nostra scuola. Se ha delle lacune, se diciamo così gli manca qualcosa, siamo noi docenti che abbiamo la responsabilità di darglielo. Ecco, magari non tutte le scuole purtroppo sono accoglienti come la sua, da come la descrive. Insomma, se un ragazzino per esempio alle medie ha grossissime difficoltà o grosse difficoltà in matematica, a quel punto meglio stare alla larga dal liceo scientifico o c'è spazio per tutti al di là del suo liceo scientifico naturalmente? Sicuramente il parere degli insegnanti delle medie, diciamo così, è il primo elemento per loro che escono. Forse il consiglio sarebbe di documentarsi anche, diciamo così, su quale liceo scientifico possono andare a frequentare, perché per esempio nel nostro ci sono anche molti supporti iniziali per chi ha difficoltà, progetti che in parte prevedono anche il coinvolgimento di ragazzi che frequentano il nostro liceo e che sono già più grandi. E quindi, diciamo così, se in questi licei bisogna documentarsi, però ci sono, diciamo così, degli aiuti iniziali, allora anche le difficoltà possono essere superate, soprattutto se c'è questo tipo di curiosità iniziale, questa voglia, diciamo così, di sviluppare le proprie capacità. Un viaggio che ci sta davvero portando in ogni angolo d'Italia, questo fra le scuole migliori del paese, alla ricerca di una risposta ai nostri dubbi su quale indirizzo scegliere per nostro figlio alle superiori. Da domani, infatti, saremo chiamati a scegliere attraverso l'iscrizione online a che scuola iscriverci. C'è poi tempo fino a fine gennaio, ve lo ricordiamo. Liceo scientifico, abbiamo sentito, che però da qualche anno offre anche la variante liceo scientifico opzione scienze applicate. Ci racconta in cosa si differenzia rispetto allo scientifico tradizionale un amico di Radio 24, Salvatore Giuliano, che ha concluso la sua esperienza da sottosegretario al MIUR nel primo governo Conte. Ora se n'è tornato alla sua amata scuola, il Maiorana di Brindisi, anche se resta consulente al Ministero per l'Innovazione Tecnologica. Il liceo scientifico, opzione scienze applicate, potrà distinguere dal liceo scientifico tradizionale per il fatto di non avere l'insegnamento di latino, e quelle ore settimanali che normalmente vengono dedicate al latino in un liceo scientifico tradizionale, in quello di scienze applicate vengono affidate quelle ore allo studio di discipline scientifiche. A chi consigliare il liceo scientifico scienze applicate? Assolutamente agli studenti che hanno una propensione alle materie scientifiche, quindi intendo matematica, ma biologia, anche la chimica, le scienze naturali, e che sicuramente sono proiettati a proseguire gli studi universitari. Dove si iscrivono fondamentalmente i ragazzi che escono dal liceo delle scienze applicate? Avete un feedback da questo punto di vista? Ingegneria, tutto il settore dell'ingegneria in maniera particolare, ma anche le professioni mediche. E sia di medici che di ingegneri ne abbiamo un gran bisogno qui in Italia, quindi evviva il liceo delle scienze applicate. Ma al Maiorana di Brindisi c'è anche un altro indirizzo di cui ci piace parlare, la sperimentazione del liceo quadriennale. Allora, come sta andando? Perché siete già al settimo anno, quindi insomma avete avuto anche modo di capire se ci sono dei limiti, ma anche quali sono le opportunità del liceo quadriennale, che ormai si sta anche espandendo, una sperimentazione che si può facilmente trovare anche in altre città, nelle grandi città soprattutto. Sì, siamo stati appunto 7 anni fa fra le prime 5 scuole d'Italia, scuole pubbliche, ad avere avuto l'attivazione della sperimentazione quadriennale. I risultati sono estremamente positivi. La nostra sperimentazione si caratterizza per il fatto di non ridurre di una sola ora di lezione il monte ore che normalmente si fa in 5 anni, quello fatto in 4 anni non prevede la riduzione di una sola ora di lezione. E quindi lo si affronta sicuramente con un carico di lavoro maggiore rapportato all'orario settimanale delle lezioni. Il punto di forza sta nell'utilizzo di metodologie didattiche innovative che consentono ai ragazzi di apprendere senza stancarsi, senza affaticarsi. A chi possiamo consigliare questo percorso che porta al diploma in un anno in meno, allineandoci peraltro ai ragazzi del resto d'Europa? Insomma, è un percorso di studi più faticoso, più impegnativo rispetto a quello tradizionale di 5 anni? Sicuramente ha un carico di lavoro settimanale maggiore, però ripeto, si può affrontare se la scuola arriva al liceo quadriennale avendo già sperimentato delle metodologie didattiche cosiddette innovative. Consiglio a tutti di partecipare agli open day, ma oltre agli open day, diciamo, organizzati da ogni singola istituzione scolastica, sarebbe molto bello e molto più utile, a mio modestissimo avviso, andare e magari essere presenti in una giornata tradizionale di ogni istituzione scolastica e vedere sul campo come si affrontano le problematiche e le tematiche di ogni giorno, del quotidiano. Una scuola che tu conosci molto bene, una scuola che insomma ti vede impegnato da tantissimi anni, dunque di ragazzi lì ne avrei visti passare moltissimi, molti so che ti sono anche affezionati, quindi hai avuto poi modo di proseguire a seguirli negli anni successivi, dunque sei la persona giusta per dare un consiglio un po' più generale ai ragazzi che sono alla vigilia di questa importante scelta, cioè l'iscrizione alle scuole superiori. Che cosa devono pensare e soprattutto come devono farla questa scelta, pensando in primo luogo a che cosa? Normalmente le scelte si operano o con il cervello o con il cuore. Quando si tratta di scegliere la scuola, sentite sì il vostro cervello ma anche il vostro cuore, cioè cosa voglio dire? Sentite e date spazio alla vostra aspirazione, al vostro talento. Non scegliamo e non scegliete le scuole basandovi sulla scelta operata dall'amico o dall'amica del cuore. Seguite i vostri talenti. E ai genitori invece che cosa possiamo consigliare? Perché a volte sono un po' invadenti, no? In questa scelta, un po' perché i ragazzini sono molto giovani e un po' perché noi genitori ci piace impicciarci, insomma. Ai genitori mi rivolgo da preside e da genitore. Ascoltate i vostri ragazzi, come mi piace sempre dire, ogni volta che diamo la parola ai nostri ragazzi, loro ci lasciano senza parole, quindi ascoltate i vostri figlioli, sì, dategli dei consigli, ma che siano dei consigli orientati ad una scelta consapevole e non invece ad orientare, punto e basta, secondo i desiderata dei genitori. Una scuola, lo dicevamo, quella del Majorana di Brindisi, aperta a moltissime sperimentazioni. Anche questo può essere un modo, no, negli open day per catturare così l'attenzione, anche la curiosità degli studenti, e quindi può essere anche quello un consiglio da dare ai ragazzi. Insomma, gli open day, cercate di capire anche se questa scuola è innovativa, perché ormai fare scuola in maniera innovativa direi che è, non dico d'obbligo, ma benvenuto. Ecco, che cosa proponete voi ai ragazzi che si iscrivono al Majorana di Brindisi? So che avete dei progetti davvero molto belli. Ma per esempio metodologie didattiche che consentono di apprendere non solo quando si è nelle 5-6 ore quotidianamente in classe, ma con tempi che vanno al di là quelle che sono le ore di lezione trascorse in classe. Ambienti dove non esistono i banchi tradizionalmente posti, così come lo abbiamo sempre visto in immagini anche di repertorio di 100 anni fa, in una foto di 100 anni fa, ma ambienti che favoriscono la collaborazione, la cooperazione, il poter lavorare in gruppo, la possibilità di far emergere i talenti e la creatività dei ragazzi. Possiamo consigliare a ragazzi e genitori davvero, quando si va agli open day, di verificare anche che ci sia un po' di voglia di innovare in queste scuole, perché l'innovazione è importante, no? Nella didattica, e non se ne può più fare a meno. Possiamo dare anche questo consiglio? Sì, assolutamente, soprattutto chiedere, far vedere, farsi mostrare ciò che la scuola ha fatto negli anni trascorsi e quello che magari intende fare a partire dal prossimo anno, ma soprattutto anche pensare a quello che si è fatto, perché molto spesso siamo bravi a scrivere, a dipingere i sogni, e quindi faremo, faremo, faremo, ma è evidente che finora, se non hai fatto grandi cose, è difficile che tu improvvisamente, a partire dal settembre prossimo, possa realizzare grandi innovazioni se fino ad oggi non hai fatto nulla. Sondare dunque il tasso di innovazione, sì. Soprattutto il tasso di innovazione già messo in pratica, perché a volte gli open day si trasformano un po' in un libro dei sogni. Sì, esattamente, molto spesso gli open day sono della serie quanto siamo bravi, quanto siamo belli, guardate che belle cose che facciamo. Ecco perché suggerisco sempre, chiedete la possibilità, al di là dell'open day, di poter partecipare come uditori ad una giornata tradizionale di attività scolastica. Lì si vedono, si comprendono e si afferrano tante altre cose. Occhio dunque alle promesse che fanno i presidi agli open day, parola di un preside, quindi davvero c'è da crederci. Nell'ultima parte di Verso il futuro e oltre parleremo invece di liceo classico e del liceo biomedico. Prima un altro consiglio d'autore, quello di Enrico Galiano, insegnante delle medie in provincia di Pordenone e scrittore. È in libreria con Più forte di ogni addio, edito da Garzanti. L'errore più comune che io riscontro fra i miei è quello di volare basso, scegliere scuole alla propria portata perché si ha paura di fallire, perché si ha paura di non essere abbastanza intelligenti, di non essere abbastanza bravi. A volte sono addirittura insegnanti, genitori e amici che tarpano le ali ai sogni dei ragazzi consigliando scuole, come dire, alla tua portata. Invece il mio consiglio è l'esatto contrario, il mio consiglio è quello di osare, di provare a volare il più alto possibile, perché è questo il momento in cui bisogna farlo. Una scelta condizionata dall'idea di non essere abbastanza bravi, abbastanza capaci, sarà sempre una scelta fallimentare, perché anche se ti va bene, comunque non ti avrà permesso veramente di mettere in luce quelle che sono le tue vere capacità. È un po' come, sai, in una partita scegliersi un avversario un po' più debole per essere sicuro di vincere, ma anche se vinci, cioè la soddisfazione qual è? Ad esempio l'anno scorso un mio studente, insomma, voleva andare, lui voleva il classico a tutti i costi, gli piaceva, però il classico sappiamo che è una scuola che richiede un certo sforzo, e alla fine l'avevano spinto a optare per qualcosa di più basso, di fare un linguistico, una cosa un po' più contenuta. Ma proprio poco prima dell'inizio delle lezioni mi è arrivato un messaggino, sa, prova a fare la fine, ho fatto richiesta, ho fatto tutto, mi sono fatto spostare, sono andato al classico e per me è stata una grande vittoria. Verso il futuro e oltre. Right here, right now. Yeah. Right here. Right. Sono un animalista, animalier, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Ehi, hey, ho l'ultima festa in un bunker. Ehi, hey, chiamo tutti pure Greta Thunberg. Right. Ehi, hey, dal tramonto di questo sistema. Ehi, hey, fino all'alba di una nuova era. Ho idea che per l'inquinamento fare la differenziata. È arrivato il momento di parlare del liceo classico. Perché sceglierlo e quando è bene tenersene alla larga? Perché lo studio richiesto non è da poco. Ne parliamo con il rettore del liceo classico Alexis Carrel di Milano, Raffaella Paggi. L'Alexis Carrel è un istituto paritario che ha dalla scuola dell'infanzia fino al liceo. Per il classico parliamo di una sola sezione ed è risultato il miglior classico di Milano nella classifica Eduscopio che stiamo spulciando in questa puntata speciale di Verso il futuro e oltre. Allora, sentiamoli i consigli di Raffaella Paggi. Dunque, il classico io reputo che sia ancora una scuola che permette una grandissima apertura, che se ne dica il latino e greco lingue morte, il passato non legge il presente, invece non è così. E quindi io dico di non disdegnare, di non sentirlo come una scuola del passato, ma una scuola che è ancora in grado di aprire tutte le porte, poi anche se uno volesse andare a fare facoltà scientifiche o di altro tipo. In effetti è per tutti, oppure prima di andare al classico e poi trovarsi di fronte a un anno che diventa davvero molto pesante è bene pensarci su due volte? Il mio consiglio numero uno è prendere sul serio e verificare il consiglio orientativo della scuola, perché poi il ragazzo, se si trova appunto ad affrontare una situazione che è troppo impegnativa per lui o troppo lontana dalle sue inclinazioni, finisce o a ribellarsi o a deprimersi. Le capita poi di avere dei ragazzi che in effetti invece sono stati magari un po' spinti dalle famiglie a frequentare il classico, in realtà non è la scuola per loro e quindi a un certo punto ci ripensano? Sì, qualcheduno è capitato. Allora, generalmente al classico comunque arrivano persone orientate e molto motivate, perché è una scuola abbastanza scelta, con oculatezza. Però è capitato qualche unità che si trovasse poi fuori luogo, ma in realtà io per esperienza dico che i ragazzi hanno le antenne, cioè sono loro stessi che lo capiscono, sono loro che non trovano una corrispondenza e sono in grado di dire se vengono adeguatamente ascoltati da professori e famiglie, si auto-orientano. Problema vero in Italia che non è facilissimo passare da una scuola all'altra, è meglio scegliere giusto subito. Ovviamente è meglio scegliere bene subito, anche se cambiare si può con una certa fatica e una certa tenacia, ma si può. Naturalmente non riusciamo a parlare di tutti gli indirizzi, ci sarebbero ancora un sacco di cose da dire, per esempio sul liceo delle scienze umane, il liceo artistico, il liceo coreutico, e poi ci sono i vari professionali, i vari tecnici. Vogliamo però concludere parlandovi di un altro percorso sperimentale, oltre a quello del liceo quadriennale, il liceo biomedico, che forse non tutti conoscono. 63 le scuole che concludono quest'anno il primo triennio di sperimentazione e altre 73 scuole lo hanno avviato nell'anno scolastico 2019-2020, per un totale dunque di 135 licei biomedici attivi. Promosso dal MIUR e dall'Ordine dei Medici, il liceo biomedico è stato scelto in questi tre anni da 12.000 studenti. Giuseppina Princi è la dirigente scolastica del liceo capofila della sperimentazione, il liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, arrivato alla conclusione del secondo triennio del liceo biomedico. Il liceo biomedico è un percorso di orientamento biologico sanitario che accompagna gli studenti ad acquisire una consapevolezza in merito ad un eventuale percorso universitario di carattere scientifico sanitario, aiutando gli stessi ad acquisire una comunque preparazione adeguata in ambito biologico. Sono previste 150 ore di formazione in un triennio a partire dal terzo liceo scientifico, 150 ore distribuite in 50 per ogni annualità a partire sempre dal terzo. Quindi, se capisco bene, è un liceo scientifico normale come tutti gli altri, più 50 ore all'anno nel triennio, quindi in totale 150 ore, più specifiche di che materie? Allora, è sempre biologia con una accura dei docenti, diciamo, di biologia dell'istituto, è accompagnata dalle lezioni dei medici che vanno a curare la branca legata alle patologie, quindi affrontano il ramo della dermatologia, dell'oncologia, ematologia, quindi tutte quante le branche sanitarie vengono affrontate dai medici, e con 10 ore presso strutture laboratoriali sanitarie indicate dagli ordini dei medici. Quindi possono essere gli ospedali, possono essere laboratori diciamo di analisi cliniche, individuate sempre dagli ordini dei medici. Quindi, se capisco bene, il ragazzo in terza media, se ha quest'idea, deve controllare che vicino a casa propria o comunque nella propria città esista questa sperimentazione, che può essere sia all'interno di un liceo scientifico sia all'interno di un liceo classico. Sì, classici o scientifici sono interessati. Una volta che ci si è iscritti in questa scuola, poi sarà in terza che inizierà questo percorso, e quindi non è che bisogna proprio deciderlo in terza media, lo si può decidere anche un pochino più in là se poi si vuole intraprendere questo percorso, lo si deciderà poi in secondo liceo, una cosa del genere? Anche in secondo liceo, che poi aiuta a capire se quella è la scelta adeguata, perché io ho avuto tantissimi casi di ragazzi che inizialmente avrebbero voluto proprio intraprendere questo percorso perché intenzionati a fare il medico, si sono resi conto in itinere di non essere tagliati a quel determinato tipo di percorso. Del resto l'orientamento è importante anche per questo, cioè far accendere delle passioni o farle spegnere se poi si vede che non è la propria strada, insomma, no? Sì. E ovviamente preparate a quel punto al test d'ingresso per medicina, è un po' quello forse anche la funzione, una delle funzioni più importanti. Come sta andando da quel punto di vista? Avete un riscontro? C'è un 30% dei ragazzi che avevano intrapreso il percorso si è ritirato in itinere perché ha acquisito la consapevolezza di non essere tagliati a fare i medici. Coloro i quali hanno completato il percorso, il 70% ha superato i test senza alcuna difficoltà e ulteriore preparazione. E vogliamo chiudere dedicando uno spazio speciale a tutte le famiglie, a tutti quei ragazzi con DSA, cioè disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi parliamo di dislessici, disgrafici, disortografici e discalculici. Un numero sempre crescente, in una scuola sempre più attenta per fortuna e con personale sempre più formato. Il tutto incorniciato in una legge che stabilisce i diritti per gli studenti con DSA, quindi piani didattici personalizzati, strumenti dispensativi e compensativi, computer, calcolatrice e quant'altro. Ebbene, per loro la scelta delle superiori risulta oggettivamente ancora più complicata, anche se in teoria possono scegliere qualsiasi indirizzo, come tiene a ribadire Paolino Gianturco, dirigente scolastico e formatore scuola ID, l'Associazione Italiana Dislessia. In teoria e in pratica. Naturalmente il passaggio, ci dicono i testi, deve essere tutelato, vale a dire garantito da un costante raccordo tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. Facciamo un esempio, un ragazzo dislessico può andare al classico e affrontare latino e greco? Il ragazzo dislessico può andare al classico e affrontare latino e greco, naturalmente sarà necessario accertarsi che in quell'istituto, non nel mondo del classico in sé, ma proprio in quell'istituto ci sia preparazione, disponibilità, apertura al dialogo, ma soprattutto formazione. Devo dire che si sta diffondendo molto di più la formazione anche sulle lingue antiche, che insomma possono sembrare, come dire, una specie di torre d'avorio poco espugnabile. Un ragazzo discalculico può andare allo scientifico e affrontare matematica e fisica? Sì, sempre con le opportune personalizzazioni del suo percorso e il sacrosanto diritto di accesso a tutti gli strumenti di facilitazione dell'approccio. Incontrerà le sue difficoltà, perché le incontrerà, ma noi per esperienza vediamo ragazzi dislessici, discalculici, che hanno, come dire, dovuto apprendere una forza di volontà a volte spaventosa, insomma, ed è encomiabile. Fra l'altro parliamo molto spesso di ragazzi dotati di un quoziente intellettivo, diciamo, nella media o superiore, quindi sì, le possibilità ci sono per tutti, bisogna in quel caso chiedere e pretendere l'accesso a strumenti di facilitazione dell'apprendimento e di strategie, di metodologie opportune, cioè di quella che si chiama la didattica inclusiva, cioè una didattica che in classe non è fatta solamente per 7 o 8, i quali magari andrebbero avanti anche senza il loro professore, ma per tutti e 25-30 gli alunni della classe, compresi i DSA. Si conclude qui questo speciale di Verso il futuro e oltre, dedicato alla scelta delle superiori. Speriamo davvero di avervi dato qualche idea, qualche consiglio utile per iscrivervi da domani senza troppi patemi. Potete riascoltare quanto detto, ma anche tutte le altre puntate dei podcast di Verso il futuro e oltre, dedicato proprio alle superiori, andando sul sito di Radio 24 nella sezione podcast. Un saluto da Maria Piera Ceci.